la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori, ci sono dei giorni in cui ovviamente i Doors, This The End, si adatta ancora più che altri, ovviamente è così all'indomani dell'attentato di ieri sera a Manchester con vittime e così giovani oltretutto, visto il genere musicale del concerto che erano andate ad ascoltare. E tuttavia mi ero chiesto, facciamo un'ennesima puntata? No, ho deciso di non farla, vedremo, che capiremo meglio in giornata. Nel frattempo la polizia pare aver identificato l'autore, si sospettano 2 o 3 collegamenti, vedremo, ne parleremo meglio domani mattina. Volevo semplicemente iniziare esprimendo la solidarietà di tutti, oltre che mia personale, alle vittime, ma ricordandovi anche che il sangue che di volta in volta viene versato in Occidente, nei nostri paesi, ma complessivamente dal terrorismo islamista, ancor più nei paesi musulmani che da noi, non ci deve far commettere un errore, e l'errore è quello di credere che stiano vincendo. Non è così, non stanno vincendo, e dobbiamo avere, nel provare questo dolore infinito per il sangue che viene versato, la forza, avere la forza di ricordarlo a noi stessi con la giusta freddezza. Da 20 anni la recrudescenza dell'islamismo colpisce nel mondo, è una guerra interna al mondo islamico ed è una guerra verso l'Occidente. L'Occidente si è trovato a fare molte volte il conto di come intervenire e molte volte ha sbagliato, l'ha imparato sul campo, hanno sbagliato Bush, ha sbagliato Obama, commettendo anche l'errore di offrire al destro la recrudescenza invece che all'estinzione del fenomeno. Ma malgrado tutto questo, malgrado i dubbi che ha l'Occidente su se stesso, sulla forza della sua economia, sulla solidità dei suoi valori, non stanno vincendo. No, e questo bisogna ricordarselo quando sangue viene versato, questa terribile, purtroppo, irrorazione di sangue da parte della terra. Arano il sangue con la terra, gli estremisti, il fanatismo terrorista islamista, però non li porta a vincere. Il disastro che Medio Oriente ha creato, 450.000 vittime e di 5 milioni di esuli dalla Siria, è un disastro quello dello scontro tra l'islamismo sunnita e tra le fazioni sciite, che nasce dalla sconfitta di Al-Qaeda, di Osama Bin Laden, non dalla sua vittoria. E per quanto complicato sia mettere insieme i pezzi di questo mosaico, e per quanto purtroppo doloroso sia contarne le vittime, non dimenticate e non dimentichiamo, non stanno vincendo. E però ho detto oggi, ohimè, a questo punto, rinviando la riflessione su cosa è davvero successo, come è potuto succedere in Gran Bretagna, quando erano più particolari rispetto a quelli che si conoscono a questo momento, ho detto occupiamoci di una delle classiche invece vicende italiane. Quindi oggi la puntata è dedicata a che cosa sta avvenendo alla RAI. Lo sapete che cosa sta avvenendo alla RAI. Il direttore generale, amministratore delegato, il capo azienda, visto che il governo Renzi aveva cambiato i poteri del capo azienda e quindi aveva molto rafforzato il capo azienda, quindi Campo Dall'Orto è sfiduciato dalla consiglio di amministrazione. Domani o quando sarà, pare che non sia domani, ma insomma al massimo un giorno dopo, andrà al tesoro, che è l'azionista, per vedere cosa fare, ma insomma la sua incarico è finito. Ieri ha detto: ho sempre avuto contro tutti i partiti fin dall'inizio, ma non lo so, vista la legge di investitura che il governo Renzi ha fatto passare, che attribuisce al governo la scelta, mi pare difficile immaginare che fosse stato paracadutato. A me, in sintesi estrema, pare questo, ma ci sono 2 ospiti che seguono le vicende della RAI con più acume e più attenzione di quanto faccia io ho una convinzione da sempre, da molti anni: bisogna privatizzarla separando il servizio pubblico da ciò che è commerciale. Sono, come dice l'autorità antitrust, da anni inascoltata dalla politica per separare i servizi con il canone. Se c'è un servizio pubblico si fa solo con il canone, con le risorse di mercato la pubblicità si fa una roba che non deve essere pubblica e si privatizza, e la BC ricordo che nella BBC britannica i canali che hanno la Royal Charter, cioè sono di servizio pubblico, non hanno pubblicità e vanno avanti con il canone passa per la stessa scatoletta in cui si può prendere Sky eccetera, tu hai l'opting out e quindi puoi non pagare il canone, così è nei paesi civili. In Italia ci hanno messo il canone in bolletta, il canone è travestito una tassa di proprietà, ma è canone per dare soldi alla RAI. I soldi alla RAI sono aumentati, benissimo, è aumentata la greppia, perché da quello che mi pare di capire la sostanza è che la novità, ha scritto per Luigi Battista oggi, è che non so comandano i partiti, ma per la prima volta coloro stessi che hanno messo il capo azienda se lo mangiano. Ecco, questo è quello che vedo io. Direte che sono come sempre sopra le righe, ma questa è la mia netta opinione. Il servizio pubblico, se uno vuole vedere che cos'è, il mio consiglio era ieri, lo trovate ancora oggi sui portali dei giornali britannici, anche se ovviamente è scesa una gerchia della notizia per quello che c'è su Manchester, ma potete andare a vedere sul portale di Independent l'intervista che BBC ha fatto a Theresa May, premier britannico, per 5 volte incalzandola con domande a cui lei non ha risposto, e quella intervista viene riportata dai giornali come le 5 domande a cui il premier May non risponde alla BBC. Guardatevi quel tipo di intervista, chiedetevi se alla RAI vedete interviste dei presidenti del Consiglio fatte allo stesso modo. Ecco, la risposta la lascio a voi, ma per me il servizio pubblico è un'altra cosa, e questa vicenda di Campo dall'Orto, che io francamente capisco, ma fino a un certo punto, per spiegarcela, per capire che cosa è avvenuto davvero in un consiglio nel quale è maggioranza chi è nominato da parte della maggioranza del governo che ha scelto il capo azienda, come siamo arrivati fino a questo punto, ce lo spiega chi segue meglio di me la RAI. Quindi abbiamo come ospiti Paolo Conti del Corriere della Sera, buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio, grazie a voi per l'invito, grazie mille. E Mario Aiello del Messaggero, ciao Mario. Ciao a tutti. Grazie. Allora Conti, nella realtà dei fatti, delle due l'una, se è vero quello che ha detto Campo dall'Orto, lui ha sempre avuto contro, pare che sia una questione personale, ma altrimenti quale è stata l'evoluzione a tuo giudizio che ha portato a questa sfiducia? La piattaforma guarda, unica di notizie, dire nomine di direzioni, che cosa? Guarda, c'è una costante che attraversa la storia della RAI, e questa vicenda di Campo dall'Orto non è l'unico caso citato. In generale, per l'errore di fondo, per il vizio di fondo che tu hai, devo dire, ben descritto, la televisione pubblica viene vista dal palazzo, dal potere, dal presidente del Consiglio di turno, dal partito di maggioranza relativa del momento, come un luogo dove espandere la propria idea, una specie di cassa di risonanza del governo attuale. Ergo, tende a nominare colui o colei o una persona che viene ritenuta utile a questo segno. Non dico un faccendiere, non dico un esecutore di ordine, non dico un cameriere, ma sicuramente persona molto malleabile alla quale si può consegnare, affidare un progetto partitico di governativo e dormire sonno tranquillo. Cosa succede? E sarò brevissimo. Di solito questo direttore generale o direttora generale, c'è stata anche una, arriva e si rende conto che la situazione è enormemente più complessa. Nel caso di Campo dall'Orto, su Rai 3, dopo il fallimento dell'esperimento del collega di Sky di Politi inserito, c'era un buco da sistemare, e questo buco di palinsesto correva forse di grande richiamo, e hanno dovuto, era l'unica professionista in questo momento libera, chiamare Bianca Berlinguer. Cos'è avvenuto? Che quella RAI che qualche renziano, non voglio dire Renzi, qualche renziano immaginava potesse essere appunto la cassa di risonanza o comunque del governo o del partito che dato da Matteo Renzi, si è ritrovato con un punto di informazione fortemente anti-renziano, comunque sempre pieno di contraddittori. A questo aggiungiamoci la prospettiva di avere Milena Gabanelli alla guida di una nuova testata digitale, probabilmente potenzialmente potentissima, non era precisamente nel segno di una televisione desiderosa di fare carezze al potere. Ecco, facciamo questo combinato disposto, ed è chiaro, lo scrive anche Battista, che quello stesso centro di potere che ha messo Campodamorto lì non lo vuole più tra le scatole. Infatti, cos'è che è stato bocciato? È stato bocciato quel piano editoriale che conteneva la novità che faceva riferimento a Milena Cabanelli. Questo è lo schema e questo è oggettivamente lo sfondo su cui si stanno muovendo i personaggi di cui stiamo parlando. Ma scusa, siccome io ti do ragione, mi hai convinto, ma vuol dire che Campo Dall'Orto all'inizio ha pensato che lo nominassero per una cosa diversa, cioè per perseguire davvero scelte autonome e indipendenti da Palazzo Chigi, che aveva cambiato, guarda, la legge per darsi il potere di nominarlo? Ma guarda, io penso che lui sia un uomo, diciamo come diciamo noi, un uomo di mondo, nel senso che è un uomo che... Però lui ha pensato, io non sono suo amico, non l'ho visto una sola volta per un'intervista nello spazio di un'ora, ma immagino, diciamo che mi metto nei suoi panni, immagino che lui possa aver pensato, accettando l'incarico, che potesse in qualche modo contemperare un cambiamento della televisione pubblica, per esempio appunto con la scommessa digitale, la revisione delle news, eccetera, con un progetto politico che fosse in qualche modo in linea con la maggioranza. Ma è successo che poi tutto questo ha avuto un'accelerazione, il governo Renzi è caduto, Renzi le primarie, avrebbe avuto bisogno di una visibilità probabilmente diversa, certo non nell'episodio della BBC che tu hai raccontato, perché in Italia con questo servizio pubblico è semplicemente inimmaginabile. Esatto. Ma questo vale per una maggioranza di centrodestra? No, per tutti, sono d'accordo. E del Movimento 5 Stelle sono pronto a scommetterci e poi taccio. Ecco, questo è il quadro di riferimento di queste ore. Allora, Mario Aiello, innanzitutto voglio sapere se condividi questa ricostruzione di un Campo Dall'Orto che dice ci prova, ma poi naturalmente sì. La politica si aspettava altro, i renziani si aspettavano altro. Capisco che Paolo Conti invece di dire Renzi dica i renziani, va bene, diciamo i renziani, Ansaldi per capirci. Leggiamo tutti i giorni da mesi le sue tonitruanti dichiarazioni che volevano arrivare a questo esito. La domanda che faccio a te, Mario Aiello, oltre che se ci riconosci, come mai noi però l'informazione in generale esitano ad attribuire a Renzi in persona, che ha voluto questa legge, ha voluto questa nomina, la cacciata? Perché Paolo Conti ne ha dette, l'ha detto chiaro come è stata la ricostruzione. Tu che dici? Ma io dico che io credo che Renzi si aspettasse da una parte uno smantellamento vero di Rai 3, che non è avvenuto. Da un'altra parte si aspettava idee innovative sui talk show che non ci sono state. Da un'altra parte si aspettava grande innovazione sul prodotto che non c'è stato. Cioè lui, io credo che Renzi, che è stato il vero mandante naturalmente della fine di Campo Dall'Orto, il mandante dell'inizio e il mandante della fine, volesse essere garantito molto di più politicamente e coprire questa cosa con una grande innovazione del prodotto, molto storytelling nei telegiornali ha avuto una fedeltà politica piuttosto forte, non totale, e questo non gli è andato bene. E dall'altra parte, dal punto di vista dell'innovazione televisiva, non l'abbiamo vista. Cioè ci ritroviamo sempre a seguire gli stessi talk show che, detto maccheronicamente, sono bolliti, e un grande personaggio della televisione, quale pensavamo che fosse Campo Dall'Orto, non è riuscito minimamente a portare delle novità. Quindi gli aspetti sono due. C'è quello politico e quello della mancata novità editoriale. Poi c'è il pasticcio di fondo. Cioè, tu non si può pretendere di dare una svolta alla RAI in una situazione ibrida. Cioè, da una parte c'è un direttore generale a cui sono stati dati più soldi e più potere, mm-hmm. e dall'altra parte c'è un CDA, che è il solito CDA di nomina politica. Ho capito, però come ne abbiamo visti tante. Questa, la legge l'hanno messa a posto, ma si capisce adesso perché gliel'hanno messa così, perché come vedi, per mandarlo via il direttore generale, se non si allinea al Consiglio di amministrazione, funziona con il ticchettio, perché vedo che ci sono ex democristiani eccetera eccetera che hanno puntualmente svolto quello che mi aspettavo che facessero. Appena hanno usato il vento, si sono messi a fare i capi della pattuglia per mandare via il capo, e così incasseranno magari la nomina di qualche ex democristiano che sta in azienda. Scommetto che va a finire così, perché l'unica uscita è quella che dicevi tu prima, cioè affrontare una volta per tutte il discorso della privatizzazione vera. Però questo non si farà, lo sapete benissimo, quindi non ripartiamo di qua, perché sappiamo che non lo farà la politica italiana, non lo farà mai, tanto più dopo aver dato tante risorse aggiuntive con il canone in bolletta, che ovviamente ha avuto i suoi effetti di stanare chi non lo pagava. Non lo farà dopo aver dato queste risorse aggiuntive alla RAI. Ci scommetto quello che volete. Un minuto di traffico e poi torniamo con i nostri due ospiti a parlare di RAI dopo Campo dall'Orto. Ma davvero lo mandano via sotto elezioni il governo Gentiloni? Chi lo nomina, in vista di che? Tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati a parlare in diretta di Rai. Sono con noi Paolo Conti del Corriere della Sera, Mario Vello, giornalista del Messaggero. Paolo, ma a questo punto il governo Gentiloni nomina il successore senza sapere tra quanto siamo sotto elezioni? Cosa fanno? Una nomina elettorale? Che pensi tu? Guarda, non è così semplice, perché come Mario sa perfettamente, ma lo sai anche te, la legge istitutiva dell'attuale regolamento Rai, chiamiamolo così, o comunque il quadro normativo della RAI, mentre vede nel Ministero dell'Economia, che ha il 99,99% delle azioni della RAI ed è di fatto proprietario della TV pubblica dopo la fine del, ha il potere di nomina o comunque di designazione del direttore generale, ma non esiste, questo è un altro paradosso, lo strumento della revoca, cioè se il direttore generale improvvisamente impazzisce, entra nudo a Viale Mazzini e dice delle follie e grida di essere un nuovo profeta, nessuno lo può revocare, non esiste tecnicamente questo strumento. Cosa succede? Campo dall'Orto vuole andare da Padoan a chiedergli secondo lui cosa dovrà fare, Padoan, sono pronto a scommetterci i soldi, gli dirà: io sono la fonte di nomina, fai quello che tu ritieni opportuno, io non posso dirti di andare via perché non ho questo potere. Allora bisognerà vedere, giovedì c'è un nuovo consiglio di amministrazione, se tutta questa storia troverà un ricompattamento in qualche modo più o meno democristiano, comunque si troverà una via d'uscita per non far esplodere il vertice RAI sotto elezioni o comunque in una campagna elettorale più o meno evidente, oppure se invece dovremmo veramente immaginare le dimissioni di Campo dall'Orto, la designazione di un nuovo direttore generale da parte di Padoan, e qui sai, la fantasia può correre su praterie sconfinate. Ho sentito e ho letto i nomi di diversi interlocutori, di diversi personaggi. Certo che se si arrivasse a dover nominare qualcuno, il governo Gentiloni non prende naturalmente un trotskista leninista, troverà un uomo o una donna capace di dare questa volta attentamente il pensiero. Questo è poi come sicuro, ecco, questo è il quadro. Sei d'accordo, Mario? Sono abbastanza, anzi, sono completamente d'accordo. Io però il problema vero è che adesso un nome, ma neanche un'identità, neanche un identikit forte a cui si poteva pensare, non c'è stato. Però se adesso scusami, dice ci vogliono 5 minuti per trovarne uno e in 10 minuti farà un piano editoriale che in 2 anni Campo dall'Orto non è riuscito a fare, io non credo che sia nemmeno io, però siccome semplice, Ansaldi, cioè il PD, cioè Renzi martellava da mesi, dovrei dedurre, logica, se ha una logica tutto questo, che la logica significa che ci hanno pensato abbastanza da dire proprio certo, sotto elezioni prima ne mettiamo un altro per farvi vedere la differenza fin dall'inizio. Sbaglio, Mario? Sì, no, non sbagli, però noi sappiamo che questo tipo, diciamo, di progettualità l'abbiamo visto anche a Roma con Marino. Renzi ha sbaraccato Marino al Campidoglio senza avere in mano una carta vera, una carta vera e neanche un'idea di un processo politico che portasse giovamento al PD che aveva fatto questa manovra. Io credo che questa volta sia una crisi al buio, e questo mi fa credere, mentre ieri pensavo che fosse davvero finita la vicenda di Campo Dall'Orto, che lo fanno andare avanti. Non lo so, oggi direi 50 e 50. Ecco, siamo proprio ai vecchi tempi del rumor, se posso dire. Sì, poi, secondo me, io se potessi scegliere, manderei a casa sia lui sia il CDA. Ho capito, purtroppo non sarà così. Purtroppo non sarà così. Perché va a casa lui, se va a casa lui, questo lo vedremo. Detto tutto questo, Paolo, il tasso di innovazione che la RAI, lo riportano tutti i quotidiani oggi, dice non abbiamo mai innovato come in questi mesi. Che cos'è, un'autodifesa in extremis senza senso, oppure siamo diventati tutti troppo cattivi per la crisi di Campo Dall'Orto e qualche cosa gli va riconosciuto invece, secondo Guarda, te, Paolo? Io questo slogan, purtroppo, essendo grandicello, mi occupo di RAI, mi rendo conto dall'archeologico 93, ho sentito questo slogan veramente una quantità di volte imbarazzante. Posso dire che ci sono stati segnali, qualcosa è avvenuto, o comunque c'erano dei tentativi per poterlo fare. Ecco, dirti che sarà una RAI irriconoscibile rispetto al passato, dopo il passaggio di Campo Dall'Orto, ecco, ci vorrebbe uno storico che non sono io, ecco. Comunque non sono in grado di sottoscrivere un'affermazione di questo genere. La Gabanelli, secondo te, la nominano o la mandano via? Questa è una bellissima domanda. È chiaro che semmai Campo Dall'Orto, guarda, mettiamola così, facciamo un pezzo di Fantarai. Se Campo Dall'Orto riesce giovedì a estrapolare la questione Gabanelli, a varare questo progetto, Campo Dall'Orto non si dimette. Sì. Questa però, mi pare di capire, all'interno dell'azienda è dura da buttare giù, anche se per ragioni... Secondo Mario, che dice? Ce la fanno a nominare la Gabanelli, Mariuello? Ma io non credo. Ecco. Io non credo perché ormai, diciamo... La crisi è andata troppo avanti. La Gabanelli, che strage, la Gabanelli di credibilità, non... però è una strage di credibilità, nel senso che la Gabanelli, scusate, è detta fuori dai denti, cari ascoltatori, io posso essere non essere d'accordo su molti tagli del report negli anni, ma non può sfuggire a nessuno l'importanza che ha una trasmissione schiena dritta, no, sui temi dell'economia come report, talvolta secondo me eccedendo rispetto a notizie vere ha fatto, però se c'è anche la strage di Gabanelli compresa, è un'azienda che uccide i suoi talenti, non voglio dire altro che servizio pubblico, però questa la mia opinione personale. Io ringrazio Paolo Conti, Mario Aiello, e la mia opinione è una: privatizzare! Continuate con Radio 24.